Yes, people, questo è Jolly Roger. E questa è la nostra sigla. Venerdì 18 marzo. Iniziamo la nostra diretta, questa è la nostra quindicesima puntata, questa è Jolly Roger, l'original lab che ci siamo inventati noi e siamo qui in diretta dal Brancaleone. E salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche in ascolto, salutiamo le nostre ormai amiche del GAS che sono presenti qui al Brancaleone, salutiamo tutti i colleghi di Dea Prisma, tutti gli amici di Pirate Radio e tutti gli amici e le amiche del Branca che ci ospitano. Iniziamo la nostra puntata così, abbiamo detto che questa è la nostra quindicesima puntata, iniziamo con un pezzo che si chiama Sempre Allegri. Banda Bardò, sempre allegri come qui a Jolly Roger. Datemi mulini a vento, le chiavi del convento, la soluzione a tutti i difetti miei è la solitudine, ma non la vorrà. All'attacco, miele e tabacco. All'attacco, miele e tabacco. Son nato sulle ossa rotte, dalla parte più forte. La fortuna è un fatto di geografia, voglio un tuo cavallo armato di energia. All'attacco, miele e tabacco. E vino nero contro l'acidità, la danza dell'arroganza ad avvenire e presto finirà. Non lascerò timone al tempo, guardo l'orizzonte ogni momento, cerco soluzioni e trucchi di magia, credo che alla fine arrivi la cavalleria. All'attacco, miele e tabacco. E vino nero contro l'acidità, grido senza permesso, senza rumore, nessuno sentirà. Datemi mulini a vento, le chiavi del convento, soluzione a tutti i difetti miei è la solitudine, ma sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re. Male al ricco, al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. Sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re. Male al ricco, al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. All'allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male. Sempre allegri bisogna stare, che non sta facendo male al re. sempre allegri proviamo a esserci e a starci. Ora, come nostra consuetudine, intanto siamo tutta la crew al completo e passo per questo primo intervento a Alice che ci racconterà alcune cosette sulla mobilità di Roma. E poi andiamo con le nostre scelte musicali accompagnandovi piano piano almeno per un'oretta. Ora passo il mic ad Alice. Ciao a tutti, voglio parlare di un argomento importante che è la Melo B1. La Melo di Bologna è stata chiusa molto tempo, un poco tempo fa, però solamente che la Melo B1 è senza treni e aumento delle navette. Dal 19 aprile al 6 giugno del 2022 la Melo sarà attiva. Dalle 5:30 di mattina fino alle 9 di sera. La chiusura anticipata riguarda solo la tratta da Euro e Laurentino e Castelvetrano a Ionio. Manutenzione e sistemazione dei dispositivi antincendio e infrastrutture elettriche. La stazione Colosseo è sulla linea A dal 15 giugno fino al dic a dicembre del 2023 e Valle Aurelia e Baldo degli Ubaldi verranno chiuse, servizio sospeso dal 18 al 20 marzo, nessuna chiusura della Metro C. Ringrazio a voi che volete riparare la metro. E noi ringraziamo soprattutto Alice che ci dà tutte queste dritte che voglio E dire, cioè voi? hanno un senso insomma. Esatto. Buon lavoro! E noi andiamo con la nostra prima scelta musicale, nel frattempo ci è venuto a salutare anche Lucone e iniziamo con il pezzo che va così. Ciao ciao! Nostra serata finisce qui e ora la fine del mondo. Ciao ciao! Come stai, bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno, è la fine del mondo. Sopra la rovina sono una regina. Mamma, non so cosa salvare. Sono a pezzi, già mi manchi. Occhi dolci, cuori infranti. Che spavento come il vento. Questa terra sparirà. Nel silenzio della crisi generale, ti saluto con amore. cia-cia. Con le mani, con le mani, con le mani, cia-cia. E con i piedi, con i piedi, con i piedi, cia-cia. E con la testa, con il petto, con il cuore, cia-cia. E con le gambe, con il culo, con i miei occhi, ciao. E anche noi facciamo ciao ciao in diretta dal Brancaleone. Questo era il pezzo che abbiamo scelto per voi. Ora mandiamo il pezzo che ha scelto Alice e poi interverrà Luca. La notte taglia metà l'anima della città. Tu che ne piene le palpebre di parolacce romantiche. Suona una radio che fa ah, na na na na na na. Lo scrivo sopra la polvere, succederà, fermati qua. Vista dalla finestra, ehi tu, la luna sembra un'altra, ma giuro, là fuori è benzina, la luce cammina, è mattina, sì però. Ancora un movimento lento, poi chiami un taxi. Da queste parti facciamo presto per fare tardi. Fuggente, battito di ciglia. Una scena di Almodovar. Sì, magari ti chiamo, magari. Pelle sulla pelle, un sorso di veleno che se ne va. Ancora un movimento lento, poi chiami un taxi. Da queste parti facciamo presto a fare tardi. Ancora un movimento lento. Lento questo nostro che stiamo iniziando la puntata piano piano. È intervenuta Alice, ci ha raccontato alcune cosette e ora passiamo il mic al nostro amico Luca. Lo snowball. Allora, intanto buonasera a tutti. Lo snowball. Ah, spiegaci oggi Luca, la settimana scorsa, o meglio qualche settimana fa, ci ha raccontato un attimino della sua passione per il biliardo. Invece oggi ci racconterà di un altro sport che ha conosciuto e che gli piacerebbe un attimino anche praticare. Vai Luca. Lo snowball è ideato da due interpretatori francesi che mescolano il calcio col biliardo. Dici un po' quali sono le regole. Le regole sono, la prima è una generale, che la palla bianca. Allora, prima cosa partiamo dal campo. Il campo è delimitato da una cornice alle buche come il biliardo. Ci giocano con i piedi, non con le stecche. Sono a quelli del biliardo, ma più grandi e più leggere. La palla bianca di solito è più pesante rispetto alle Le regole sono diverse quelle generali e che le palle calciate non devono passare sopra le altre. Buona giocata. Va bene, perfetto. Quindi diciamo questa a grandi linee è questo sport. Poi magari prossima volta parleremo di altre iniziative, di altri sport. Insomma, abbiamo parlato, cioè prima abbiamo parlato anche per esempio del calcio fiorentino. Chissà che magari, certo, da praticare un po' più hard, però magari ne parleremo nelle prossime puntate. E ora andiamo con il pezzo scelto da Luca. Torniamo qui in diretta. Volevo confessarvi, anzi, volevo fare presente che Luca è un grande amante dei Queen, quindi a noi fa solo che piacere che siamo passati da qualche pezzo italiano recente a dei grandi del panorama della musica internazionale. Detto questo, ripasso il mic a Luca, che ci racconta alcune, anzi, ci dà i suoi consigli per gli acquisti, diciamo. Offerte dal Tigre dall'11 marzo al 23 marzo. Arance siciliani GP a 2,99 euro. Birra Heineken. Perché la birra è birra. Silver a 1,49 euro. Passata pomodorissima Santa a 69 centesimi. Perfetto, quindi diciamo questi sono i consigli degli acquisti di Luca e noi proseguiamo con l'altra scelta musicale e poi ritorniamo sempre in diretta dal Brancaleone. Okay. E noi ritorniamo in diretta. Questo è il momento che Luca ci racconterà e ci farà passare alcuni momenti in allegria. E passo subito il mic direttamente a lui. Ma hai sentito del ragazzo che si è strozzato con la mozzarella? Infatti era una bufala. Lo sai qual è il colmo per un cane? No. Vedere un osso duro. Incontrare un osso duro. Sai che cosa fa un ginocchio in discesa? Rotula. E questo è il momento che piace di più a tutti di Jolly Roger o amici, che in verità se le segnano anche le battute di Luca, per quanto piacciono. Detto questo, noi proseguiamo la nostra scelta musicale e andiamo avanti con la nostra puntata, anzi con la nostra 15ª puntata. Facessi solo guai, beh c'è ragione, vieni con me che li facciamo insieme. E ritorniamo sempre in diretta. Questo era sempre un pezzo scelto dai ragazzi di Jolly Roger. Volevamo ricordare, anticipo diciamo quello che sarà l'intervento dell'amico Matteo, che domani è la festa del papà, il 19 di marzo. E quindi festeggiamo e facciamo un po' di anticipo auguri a tutti Giuseppe e a tutti i papà che ci ascoltano e che ci supportano, oltre che ci supportano. Ora, detto questo, passo il microfono a Matteo. Danno Giuseppe. Allora, San Giuseppe è il padre putativo di Gesù. Padre vivo, è il simbolo del padre buono. Date, ecco, vivo. Allora, San Giuseppe, quindi abbiamo detto che è il padre buono, paziente e comprensivo, cosa che non sono io, però detto questo proseguiamo con una breve storia della figura di San Giuseppe. Il 9 marzo, Eva viveva già vegetato nel Tiga Roma con la Ricorda, data di vera, giorno del ticcato, al protettore dei propri. Cioè, praticamente San Giuseppe non era nient'altro che il patrono dei falegnami, e questo stiamo parlando dell'antica Roma, mentre oggi... oggi è culturata... è conosciuto come... come vede del papà. In questa festa erano ritratti soleni e parenti a parte di fratelli e da cui famosi gente San Giuseppe. Praticamente questa, come attualmente è praticamente, non è nient'altro che la festa, come tutte le feste, dove si magna. Ma cosa si magna? Abbiamo detto che siamo partiti dalle frittelle per arrivare ai i bignè. Quindi parliamo dei bignè di San Giuseppe. I bignè si sono delle regioni, nei bignè a seconda delle regioni, ma non è facile farli in casa, quindi il mio consiglio è andare in pastoria a comprarli. E buona festa al papà a tutti. Bomba, quindi come ha consigliato Matteo, che di solito ci dà le sue ricette, abbiamo parlato di matriciana, di carbonara, ora il consiglio di Matteo per quanto riguarda i bignè è quelli di andarli direttamente a comprare e soprattutto a mangiare. E noi proseguiamo con la nostra scelta musicale, pezzo di Marrakesh, Calcutta, Laura d'Onorem, che dedichiamo a tutti i papà e a tutti i Giuseppe. Sei cresciuta senza nessuno che ti ha chiesto scusa, nella questura, nella famiglia, neanche la fortuna. Nel tuo rione tutti i campioni di sopportazione, e mandi giù le illusioni finché non senti neanche più il sapore. Ti fai ruvida come il paesaggio, sai che tutti sono di passaggio, però dentro lo vuoi così tanto, tanto. Un po' d'alcol e di polverina per cauterizzare la ferita, stai tremando perché la tua vita vibra, vibra. Anche se la tua stella sta così lontano, quasi non c'è, chissà com'è. Quando guardo la notte sembra che parliamo ora, ore, chissà dov'è. E le ossa rotte di ricordi dei tuoi occhi quasi blu. Mare chiaro. Di tutti i primi del mese, ma come paghiamo ora, ore, chissà com'è. Sei giù d'umore, anche se non lo fai vedere. Non sei all'altezza della situazione, lo credi tu. Sorride come, perché fosse per me. Io ti darei una laurea d'onore. Come fai? Sai galleggiare tu sopra il dolore? Io non so farlo. Riuscire ad amare ancora? Ed essere grata. Non ti sei fatta portare via il cuore? Na, na, na. Come hai fatto solo a perdonarla? Come non sei diventata matta? Ti stupisci che tu ancora abbia rabbia, rabbia. Giochi coi capelli tra le dita, ora che puoi essere bambina. Una laurea perché la tua vita vibra, vibra. Anche se la tua stella sta così lontano, quasi non c'è, chissà com'è. Quando guardo la notte sembra che parliamo ora, ora, chissà dov'è. E le ossa rotte di ricordi dei tuoi occhi quasi blu. Mare chiaro. Di tutti i primi del mese, ma come paghiamo ora, chissà com'è. A tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte. E comunque noi una laurea la vogliamo assolutamente. Detto questo, questo è il momento che partono le nostre consuete rubriche. Questa è la consueta rubrica. Matteo. I nostri pronostici. No. Partite del sabato, nota ruletto, Napoli nere, vide Napoli, con un gol, vide Pio Dio, vide Lite, con un gol, Icardi Milan, vide Milan, con due gol. Perfetto, poi avevamo segnato un'altra partita che sinceramente, no, perché ho visto il risultato, no, non la voglio dire, però è il derby, no, ma su questo abbiamo deciso di sorvolare democraticamente, no, perché il gruppo è composto da 50% di tifosi da Lazio e altri 50% tifosi da Magica, quindi abbiamo deciso di non nominare il derby e proseguiamo la nostra scelta musicale così e ritorniamo poi in diretta. Ti porto sotto la luna, non ride più, Gaio la porta fortuna, sotto la luna, Gaio la porta fortuna. Anche Jolly Roger porta fortuna tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Non siamo sotto la luna, ma in diretta dal Brancaleone. Te porto sotto la luna. Yeah. E noi qui abbiamo bionde, brune, more. Ma amiamo tutte le donne. E torniamo sempre qui in diretta, questo è sempre Jolly Roger. E intanto è passato a salutarci, come dicevo prima, il nostro amico Lugone, che ha portato tanta tanta musica, tanta tanta roba. E noi iniziamo col primo pezzo scelto da lui, che è un amante e un cultore della cultura hip hop. In questo caso la cultura hip hop romana. Noi diamo di play e presentiamo il pezzo. Nois Narcos, Si no me moro. Ogni stronzo su sto mondo dovrebbe ascoltare. Senza Jolly Roger non se può sta. La parla, su carta porto una fotografia. Ecco perché s'ascoltano la roba mia. Cannone in auto in galleria. Gesù Cristo n'ha mentito e l'hanno crocifisso. Poi un quadro dettagliato della merda che ho visto. Stasera ci sto. Metti Nois più 10 in lista back. Le catene pesano, protegge il neck. L'oro brilla sempre, ma un cristiano prima o poi si spegne e luccica soltanto in cielo tra le stelle. Come se senti un gospel, adesso esplodo stop. Prova un assaggio di sta roba, dai è forte monster. Non giudicare un libro dalla cover, sangue all over. Per sta merda ho ancora troppo cuore, troppo hardcore. Per ste passerelle fashion, c'ho una bad session. Prega che te svegli freddo sotto un cipresso. Squaglio la nave, la lascio affondare. La bocca tiene il pugnale, io lo conosco bene il fondale. Niente scrigni né gioielli, del resto non è questo che sognano i pischelli. E non c'avete paura che il traffico scorre. E al massimo so tu madonne sulla via. Voglio restare con te stanotte e famo mattina. Roma è tutta nostra, costa metto benzina. Meglio stelle, brillano ste luci. Storie maledette di ragazzi truci. E tutti i soldi che bruci, a cosa sono serviti? Almeno ti racconteremo che se siamo divertiti da pischelli. Pasta, uova e pork belly. Per colazione in hangover non sbagli. E occhio a come la tagli. Metti fogli in contanti a ventagli. Da 100 per il sound più coatto al momento. Fuori è una piscina congelata e non mi piace più. Gomiti al bancone, bevo Malibu. Mari blu, lisci olio, ridi tu, io odio. Sempre tutto, non so mai pagato. Lo vedi dalla boccia di cinco svuotato. Mi manca zona mia, le cose che ho lasciato. Un bacio a mamma mia, anche stanotte dormo preoccupato. Dormo preoccupato, anche stanotte dormo preoccupato. Un bacio a mamma mia. E noi diamo un bacio a tutte le mamme. Anche stanotte dormo Noi siamo sempre qui in diretta, questo è sempre Jolly Roger. E proseguiamo raccontando un po' alcune cosette. Ogni volta che praticamente noi abbiamo una chat dove i ragazzi durante la settimana condividiamo le loro scelte musicali, parliamo un po' di come organizzare la puntata. Ogni volta che arriva la scelta musicale di Lugone mi emoziono. E detto questo, mando un altro pezzo sempre scelto da lui. Fabi Fibra, Neffa. Avrei lo los ojos. Panico. Preso dal panico, fermati un attimo, perché se vai più giù, forse non torni più. Cerchi di uccidere quello che hai dentro te, ma fare come fai, poi te ne pentirai. Entra nella mia testa, mare in tempesta, facce finte di cartapesta, carne fresca, l'amo e l'esca, l'orrido, un uomo che ti insegue in un corridoio, pagine sfoglio, ricordi come foto nel portafoglio, il vento che ti sbatte contro uno scoglio, nemici che ti stringono intorno al collo, cantano in coro, in giro senti le urla, il mercato è costipato, non esce nulla, intorno trasformazioni, i soldi diventano debiti, i sogni incubi, gli amici diventano acrobati che saltano via, è un altro giorno di ordinaria follia, nella testa mia, a un passo dalla pazzia, dentro casa, parole a caso, mancano pezzi in questo puzzle, preso dal panico, non piangere, fermati un attimo, posso farcela, perché se vai più giù, forse non torni più, forse non torni più, cerchi di uccidere, nemici, quello che hai dentro te, non lo dici, ma fare come fai, come fai? Poi te ne pentirai, te ne pentirai. Vorrei dimenticarvi tutti, amnesia, rimango sveglio con la luce accesa, non c'è l'evento se non c'è l'attesa, il timore di non essere all'altezza, la voce che si spezza, meglio di molti, peggio di altri si scherza, lei che ti ama e dopo un po' ti disprezza, come una macchina che in curva non sterza, e tu dentro senza cintura di sicurezza, come la distanza, salta una parte, problemi di stampa, c'è un filo logico e la gente ci inciampa, lo stesso sogno ripetuto 150 notti di fila, gente che sfila mascherata, sotto la maschera la faccia disperata, e ragazze sul letto che mentre dormo prendono un coltello in mano, mi sveglio, tagli sul petto e corro. Preso dal panico, non piangere, fermati un attimo, posso farcela, perché se vai più giù, più giù, forse non torni più, forse non torni più, cerchi di uccidere nemici, quello che hai dentro te, non lo dici, ma fare come fai, come fai, poi te ne pentirai, te ne pentirai. Questo mondo è esoterico, demoni chiedono il solito, il mio motto è piede sul pedale, scrivo tossico come all'ospedale, pagina senza testo e punteggiatura, tu la chiami bianca, io la chiamo paura, e l'ho provata, uscendone accecato, non l'ho cercata, è lei che mi ha trovato, è stato un cata. Clisma, testa divisa come la parola tagliata, la gente sbagliata, me la sono lasciata alle spalle, se come una pugnalata, non accettare consigli da chi non accetta mai consigli, impara dagli sbagli, in effetti guarda me, ne ho fatti mille, ci sono già passato, certe cose posso dirle a te che sei preso dal panico, non piangere, fermati un attimo, posso farcela, perché se vai più giù, più giù, forse non torni più, forse non torni, cerchi di uccidere nemici, quello che hai dentro te, non lo dici, ma fare come fai, come fai, poi te ne pentirai, te ne pentirai, preso dal panico, non piangere. E noi qui a Jolly Roger non ci facciamo mai prendere dal panico, oddio, un po' dall'ansia sì, dall'ansia dell'andare in diretta, ma ci sta sempre, ci sta tutta. Detto questo, volevo salutare tutti gli speakers di Pirate Radio, ormai sta diventando una realtà costante quella di questa nostra web radio, saluto DJ Broski che domani e domenica sarà in diretta, saluto Mardok che anche lui domenica sarà in diretta con il suo programma, saluto il fratello Smash in diretta lunedì con la sua rubrica Hip Hop, visto che si passava Hip Hop, saluto Tini, saluto tutto il mio sound, quindi saluto Taueli, saluto Ilario, saluto Smash, e potrei proseguire all'infinito, spero di essermi di non essermi scordato qualcuno, oddio mi sono scordato qualcuno ora che ci ripenso, saluto Giacomo che trasmette dal Salento, saluto tutti gli amici della Sardegna, E niente, questo è Pirate Radio, questo è Jolly Roger e proseguiamo con l'altra scelta di Luca. J-Ax. Toni, con la natura avrò dei rancori. Se mi portate all'agriturismo, dopo 2 ore mi rompo i maroni. E che ho bisogno di questi odori, di micropolveri nei polmoni, di spacciatori, di imprenditori. Amo l'inferno dei miei gironi, amo l'inverno coi suoi geloni. Vivo a Milano coi suoi grigiori, vivo in Italia coi suoi valori. E vivo al mio posto tra i disertori. E vai avanti così che muori, fin dalla scuola elementare. Ma tutto quello che amo fare in tutto quello che amo fare immorale o illegale. Dovrei fare salutare, salutare notti e bevute, lavorare, fare bambini, ma poi vedo papà della mia età con debiti e casini. A volte qualcuno va dai vicini coi fucili, società che nuoce alla salute. A me piace star nei bordi, sputare quando ti sporgi, e con tot di gente fraintenda ancora il mio modo di pormi e dare fastidio a chi non ha. E questo è il mood di Jolly Roger. Sono i cantanti. Questo è il mood di tutti i venerdì. Loro video. Dalle 17 alle 18. Sere, tutte le serie. Dal Brancaleone. L'Italia poi bucarsi la lingua, sputare su villa e famiglia, l'eredità culturale, su i miti da provinciale. E salutiamo anche tutti gli amici di Telegram, il canale di Telegram di Pirate Radio. Tutto quello che amo fare immorale o illegale. Mangiare schifezze, la puzza di sigarette, le feste con la figlia del dottore, così mi scrive le ricette. Amo il Malox Plus perché sono per il fast food, per le cuffie con il Bluetooth, la super ganja, le poker room, con raggi gamma divento Hulk. Questa fobia non la sento più, corro contro l'Armageddon facendo su un vodka Red Bull. Padre perdona il mio peccato originale, ma ne frega, tanto ne muoiono 5 come me. Ogni sabato sera schiantato sul male dal quale stavo scappando, liquidato dal giornale. Quelli si stavano tutti drogando. Cazzo, ci lamentiamo, noi abbiamo tutto qui, possiamo scegliere tra te, vodka o gin, 3 Vodafone o team, liberi però senza vie d'uscita. A me piace il rosso sangue, quindi mi serve una ferita. La litigata con il più grosso, tornare a casa con l'occhio gonfio è tutto quello che mi piace fare. Mi fa sentire un po' meno morto, e se mi fa male io me ne fotto, è tutto quello che amo fare immorale o illegale. E ritorniamo in diretta. Questo era il penultimo pezzo per noi. Siamo arrivati alla fine della nostra 15ª puntata. Siamo contenti di aver messo un'altra bandierina su quello che è diventato ormai una realtà, che è Jolly Roger. Ora facciamo un saluto collettivo. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. E salutiamo con un pezzo che speriamo ci fa riflettere un po' a tutti quanti, visto la situazione attuale. E come sempre ribadiamo il nostro no alla guerra, il nostro no alle vittime civili, soprattutto se si tratta di bambini. Vi salutiamo, è stato un piacere farvi compagnia e ci si riaggiorna settimana prossima. Un saluto a tutti e a tutti e buon weekend.